così non è, perché chi sta a luogo di ricerca lì non se lo faccia passare a nessuno. Non capisco, lo so. Allora, va bene, vi saluto, che sono in sede, devo entrare, che devo fare qualcosa. Ci sentiamo. Gracias. abbiamo l'onore di parlare. Sempre quei cani del cancello che davanti lì. Che mesi erano, lo sai per caso? piano. E poi lì è stretta la strada perché stanno facendo i lavori, un casino di buoni auguri in chimico. È quello, è già, è quello. Ma se l'altra mattina già, io sono uscito dal primo incrocio qua di fronte alla Sisa, è salito la macchina dietro a me, un fuori strada, ma superato chi viene a vedere un furgone di incidenti di ragazzi, se lo fermavo io gli avrebbe fatto la fotografia bella chiara chiara, avevo che presa vai, la poi ora ci può c'ha preso, no? Sono capisci abitati qui dentro, per carità. Se io non avrei diritto accelerato per farlo passare, e l'altra mattina quello ci avrebbe lasciato le pennette. Ma non si sa se è giovane, se è buco. Perché io ho chiesto, ma in serie di sede poco fa, ma non dice che non sapeva nulla addirittura. Non lo so perché non lo sapevo, neanche ti sto dicendo, lo facevano neanche transitare a piedi, si tagliavano andare a piedi, sa già oltre che c'è il cantiere, e tu hai visto a piedi non ti facevano passare per niente. Probabilmente hanno sempre delle cose da dire, probabilmente, non lo so, non ne sono certo, non era certo il mio indicato che probabilmente non. Chissà perché dicono tutti. sì, tocca a te. Sono venuto lì, Claudio. Un attimino. ti guardo solo è un casino nero. Che ci vuoi fare già, purtroppo. La gente è già attenta. Con i squadroni di stop. Mi sembra. E semaferi. Come si chiama? Ah, vabbè. adesso noi siamo quasi anche dagli interni, fa che 10 metri, stavanti a 8 metri, non qui tra le due, quasi le due, no? Di solito eravamo qui a Pivali. Avviso di una sopprimenda, va, avviso, capito? Questo ma mai, domani non sentiamo. Scappa di roccia, va bene Luca lì, pazienza ci vuole. Straordinario, ma gli pagano. Sì. Pari, non lo so. Già. Ci pagano straordinari, capo di guadagni, attenti, fai qualche soldo in più. Beh, certo. Ma lì, siccome lì il contratto l'avevo firmato io e... quel tanto lì, di 4 mesi devo fare 36 ore mensili, no, sicurizzende, non di più sono, ma 36 ore settimanali. Che ha ancora fatto via la tua? Audio! No, neanche, aspetta, fammi, no, sono 5 per 6, 30 ore, sono 120 ore mensili già, non di più. Perché se superano le 120 ore, allora più un lavoro, più sono tassato, praticamente a me non mi viene pagato. Ma se non fa le 120 ore? Claudio, dove sei arrivato? Non riprende, riprendi per me. Forse avevo piacere a agganciare. su internet, ma guarda. via. Gente, comunque ti posso dire che su internet di tutto e di più. Ma aggiungo altro. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, come la vita normale, trovi di qui, trovi persone brave, trovi prostitute, trovi ragazze simili. È come la vita normale, no? Trovi ladri, trovi la gente onesta. E così è lì. Ma addirittura... Vabbè, una volta quando chattavo, questa qui mi aveva chiamato in privato, questa siciliana, e mi ha detto non chattare con quello lì che è un mafioso. Senti. Allora, non devi fare spam, cioè pubblicità, oppure vabbè, secondo me ti mandano. Se ti vogliono male, per dire, vale, ti mando un messaggio a te, no? A te non piace, lo segnali, il mio messaggio mi si cura in cura. Lo so. Giuseppe! Ecco! Mi riprende il microfono? Io pronto, riprendo, anzi no, riprendo adesso. E tra un pochino vado a farmi una carichetta. Papà Giuseppe, io l'ho già fatta. Quindi non posso che augurarti una buona carica. Io mi sto aspettando ancora un pochino perché rientrando da Cagliari ho pranzato tardi e ancora un pochino me la tiro se ce la faccio e poi niente, e poi subito a nanna perché stamattina c'è stata la levataccia. Ti sei alzato molto presto. Silenzio totale stamattina, alle 5:30 non c'era nessuno, Falchetto dov'eri? C'è addormito Falchetto. Sì, infatti, non c'era nemmeno Mario, nessuno, c'era un silenzio, guarda, in tutti i canali ho girato stamattina alle 5:30, quando ero in stabilimento, buio totale. Strano. Adesso comincia a piacere il lettuccio. E aprile dolce dormire. E infatti, aprile localizzato, cavo, l'unico thing che avevo io in giro. Lo so. La mattina quando si squilla la sveglia mi giro dall'altra parte, altre 5 minuti, mia moglie che mi tocca, dai Gianni, andati che tardi. E io ormai 25 anni che mi sto alzando presto e prima della sveglia mi alzo io. Lo so, ma questo periodo è solo strano, non sono me stesso, mi sento stanco, con queste gambe molli, non so se è il tempo che cosa sia. È il tempo. Riprendete voi un attimo, mi sta chiamando Veronica. Cappa. Avanti, Pierpaolo, se ci sei. Gianni. Ehi, avanti, cappa. Minchia, la parola. E mo stiamo arrivando, Lione. Mo sganciamo e poi a casa a riempire. Avaga. Ma tu abiti a Porotoro? È positivo. Ah, capo, e allora ci conosciamo sicuramente. Oh, di Porotore sì. Sì, no, non sono di Porotore, ma Porotore ci lavoro 29 anni. Capo. Ah, vabbè, io ci abito da... ora quando è? 4 anni. Ah. E vabbè, comunque sono l'autista della CISA, dai. Ah, per oggi. Hai capito chi? No, sinceramente no, però forse magari ti ho anche visto, perché l'altro giorno stavo guardando e non ti ho connesso dell'antenna, non ti ho visto. Vabbè, se sei andato in granaglia, granaglia. Sicuramente, intanto già capitava di andare anche lì. Vaga. Quando vedo un furgone con la scritta granai sono io quello che c'è te. Ma porto il torre se sei. Ecco. Sì, a porto il torre. È proprio malesto. Quasi arrivato, dai, dopo l'Ilione. para ahí como llanto a el cuarrembe a correr y estirar. El de radio no lo sé tú. Ascoltiamo forte e chiaro. mattina la studia. È fuori, no? Sono degli incidenti. Dice che probabilmente ha avuto un infarto, roba del genere, il tipo, e ha preso il controllo della macchina, è andato addosso a quella ragazza, ma è morto lui, è di sosta. Thank you. fare di infarto. Yeah. 5 ne ho onorate per ascolto magari sbagliato. ragazzi, c'è l'unica che c'è anche l'antenna incorporata. Forma sembra una radio. Thank you. lettera non si perde, non si perdono i cavi che passano dietro, perché vanno tutti dietro al mobile, quindi non si perde. Ma è più ordinato così, non è, a me non mi piace che sia il mio buco di lomuro, non mi piace così, così. Non sono d'accordo, mi piace la cosa bella ordinata. Il mio è 85, 90. importante farlo sempre bene, fare bella figura. No, ma c'è il sala, è bellissimo. Comunque diciamo che io, vabbè, me l'ho fatto sotto, come la penso io, sono con le pietre, il stilettino, le piante, tutto quanto, che ho messo un bel bellino, è piccolo, è uscito per carino. Perché c'è un disco, non chiama? Perché la sporcizia, c'è una sporcizia e anche per tutti i sali, che non sopportano i pesci di acqua dolce. Poi quelle che abbiamo preso noi erano infilate per la terra, capito? Erano praticamente noi siamo andati verso i lastroni di pietra proprio dato per l'estratto, e c'erano alcuni pezzi di terra che abbiamo raccolti, però erano sporchi di terra, di cose, capito? Quindi di là. Esatto, con le piante per fare le tane, ma non è. E anche le schegge andavano bene, tanto quella qua era piccola, andavano bene anche le schegge di pietra. È stato contento, infatti lo devo chiamare a vedere se i pesci sono ancora vivi, se l'acqua si è scaldata, perché noi l'avevamo già preparato, la quale pure si è incazzato, l'aveva tutto svuotato di nuovo, per carità, se no l'avremmo trovato già pronto a metterci i pesci. Adesso tutto ok, va benissimo. Se siccome la temperatura è un po' più bassa di quello che doveva essere, nel pesciolino non so se ce l'abbiamo fatta, perché l'ha svuotato, prima era 27 gradi, poi quando li abbiamo messi era 21, perché abbiamo dovuto rimettere l'acqua, anche se l'abbiamo mischiata con quella calda, abbiamo cercato di aumentare la temperatura, ma insomma non ci siamo riusciti al 100%. 27 gradi. E se sono troppi caldi, anche tu quelli che ci ho è a 30 gradi addirittura. Secondo i tipi di pesce, no? Per i pesci che metti, è la mia 30 gradi, sento la doppia calda, proprio calda. No, urgente, no. Calda, insomma, più che tipica. Dice che la bomba e il frugliente si cucinano. Comunque che con la cosa tropicali vivono molto meglio, come si dice, in estate che d'inverno, lo sai, perché l'acqua calda loro la sopportano. Sono tropicali. Loro vivono un'acqua tra i 28 e i 30 gradi, quelli che c'ho io. Quei posti lì, quell'acqua è calda, dove sono tutti i pesci qua. E quella è la temperatura che viviamo noi è quella che praticamente hanno loro in vita normale. Per dire, i dischi si vengono dal Rio dell'Amazzonia. Sì, l'Amazzonia. Sì, è poco lontano, via. Quindi i dischi, per dire, vengono... Prima venivano venduti così, li pescavano dal Rio delle Amazzoni e poi li prendevano direttamente. Invece poi c'è poi un tedesco ha praticamente fatto l'allevamento, è riuscito a allevarli e ha cominciato a vendere quelli di allevamento. Quelli di allevamento sopportano meglio il pH dell'acqua, perché il pH di Discus va al massimo a 6, mentre il pH pH del rubinetto dell'acqua è anche a 9, quindi per calare questo pH bisogna mettere più condizionatore, bisogna togliere i nitriti nitrati, insomma c'era un sacco di accorgimenti da fare, dai, l'acqua bisogna un po' lavorarla. Possibile pesci che c'ho lì do H2 a cosa, a Talino, rimuovere subito. Non ce la fanno, non la fanno. Bisogna avere molta esperienza, sono molto delicati per pesci. €85, €90, 100 e passa, se sono un po' adulti. Se uno riesce a tenere bene, ma se no, no, cioè, magari entra un pochettino, eccetera, no, bisogna lasciarlo stare, dai. Io quattro me li ho venduti, quattro li ho venduti, ne ho uno, uno, il migliore, dai, mi è rimasto, e basta, e gli altri quattro me li ho venduti, a produttore, c'è un allevatore che... No, ci siamo trovati in un negozio di animali, ma l'ha chiesto se... Ma ne ha da vendere, sì, che ne ho. 83 euro l'uno, gli ho venduto. E uno me l'ho tenuto per ricordo, il primo che ho comprato, me l'ho tenuto per ricordo. Ma quelli che gli ho venduti erano tutti belli, tutti colorati, azzurri, rossi, azzurri, tutti colorati con la livrea celeste. Bellissimi. Mi hanno dato uno rosso, un arancione, quelli, 24 più quello dell'anno. E volevo anche quello. Ho detto, no, quello lì me lo tengo come ricordo. È il primo che ho avuto di questa levata qua. E non l'ho dato. Me l'ho tenuto di ancora nell'acquario mio. Ma cavolo fa a portarle, vedere se è il capolo, perché l'acqua va sempre. La busta, come l'ho fatto? Ci siamo telefonati, in due buste gli ho messo una coppia per busta. E ho preso, ci sono quei bustoni, no, dove che mi hanno dato i discus che io avevo, a loro stesso mi hanno dato, ma quei bustini, bustoni grandi, tu ci metti metà di acqua e metà ci soffri dentro e li metti l'ossigeno, poi li chiudi, perché devono avere più ossigeno che acqua, capito? E resistono anche per un'ora e mezza, capito? Quindi 20 minuti di trasporto, cazzo, se non si faceva trovare che c'avevo paura di quello lì. Caramba. Ma hanno resistito bene, dai. E... Sì, ma no... Li abbiamo portati vicino a casa sua, li abbiamo messi nell'acquario, gli ho fatto vedere perché gli ho detto il pH di acqua che ci avevo, l'abbiamo misurato anche il suo più o meno era lo stesso, che c'era un po' più elevato, però mi ha detto che l'ho provato e mi ha detto che si stanno facendo favolosi, lui c'ha un acquario apparente, di quelli che ti separano la stanza l'una dall'altra. Vabbè, lui è un appassionato nello stesso animale, ma sei tranquillo per quello non gli ha venduto tanta io. No, non l'ho venduto a quello del negozio, l'ho venduto a un tipo che stava comprando i discussi lì. E io quando ha sentito a me che stavo comprando il magico per il discorso, mi ha detto, ma c'è un discorso, ho detto sì, così, mentre che colori c'è lì, lo metto, ma che mi mancano quei colori, che c'è un acquario grande, lo sto ancora all'esterno, ce ne ho messo un po', no, ma i miei non erano adulti, i miei erano nella via di mezzo, dai, 90 centimetri di larghezza. Ciao, andate. Va bene. buonanotte, un lavoro per domani, avanti Antoine. Insomma scendendo sta. Magari da un'altra parte. Oh, yeah. Casino, a butti butti era sempre pericolosa, quindi io la posso sempre, ma è molto pericolosa perché è stretta, capito? Perché non fai l'altra? Ah, perché faccio prima, uno, poi secondo luogo ci sono meno macchinette in giro. Poi faccio prima, esco dalla butti butti e sono a casa. Che me lo fa fare? Fa fare un giro di blocca, fare tutta quella la fila di macchine e così, non faccio né fila né nulla, la più spicciativa come strada. E se la dovesse allargassero un po', sarebbe molto migliore. A volte trovi certe macchine che te le vedi di fronte, e proprio si mettono a sorpassare e cosa stai scendendo. Capito? Non guarda, non guardo. Sì, allargare. Evitasse di più. Qua a volte c'è gente che è proprio mancata di gabbo, devi posti tutti i colori. E se piace il connetto, la farone da fronte in tutti. Mi fanno scusa con la mano. Cazzo, a volte ti devi buttare tutto quanto sulla testa per lasciare lo spazio di passare, anche se non ti ritraccia. Sono un po' di strada, insomma. Esci quando sei in macchina, tutto va bene, quando sei in moto cosa fai? Vedremo con un casino. Capisciamo, la moto sempre ferma lì perché ne sto sentendo troppe, ho un po' di timore anche a pigliarla, lo sai. Abbandonala. Così così in città te la usi. Aspetta tanto che c'è qualcuno che sta chiamando avanti. Sono io. Non viaggiare più a notte. Sì, non abbiamo capito chi sei. Claudio, sì. No, negativo. Ancapare. Buonasera, cordialità. Da questa parte il doppio rumo in compagnia di Pombo. Avanti. Non si è Paga. Ma Vittorio sì. Fatta. Capito. Anch'io un letto. Ecco. Camera ecco. Sembra un camionista. Ero convinto che fosse un camionista, Vittorio. Lo so. Questo ecco qua si confonde. Troppo ce n'è di ecco comunque. Dovresti abbassare un po'. Lo vorrei, certo. Magari adesso è meno. E meno, dice. Avanti, Pombo. Gamma, buonasera, Vittorio. Questo è il mese di storia. Abbiamo capito che era lui, già. E all'inizio no. Puoi sentire la voce. Buona. Sì. Sta fischiando, se no. Negativa, capite? Io ascolto più anche io. Ma sa, richiama quando sei più vicino, dai, che adesso sei un bel basso, non ti ascolto più nemmeno io. E adesso questo passaggio si è arrivato a 9, ma la radio è sempre molto bassa. Ma stai usando l'antenna della macchina? Ah, ottavo. Ti ascoltano, non lo so, Vittorio, Pierpaolo, ascolta te, Alessandro. Solo io ti sento, dai. Ma cosa ha detto Gianni? Che lui ti sente forte e chiaro, che è strano che non lo sia. No, lo sento in mezzo al QRM, lo sento, non riesco a tirarlo fuori. Ci vuole il mio portatilino, Alessà, io c'ho un portatile, sento un buono in macchina, c'è una ricezione, una trasmissione, il portatile è allucinante, con l'antenino su arriva a tiri bassi. Perché può essere magari in una zona, non lo so, è a pochi metri e non molto verso il suo contesto. E non mi ha pensato che sta uscendo un po' marino, Alessandro, con quel portale. Avanti, Vittorio, Vittorio, ripeto, tra come oggi di notturna? Io sono sempre a casa e molte volte faccio ascolto, capite? Forse ecco vi disturba? No. Questo è il canale dell'Ecco. Ah, questo è quello dell'Ecco. Anch'io ho un apparato che mi consente di avere un eco professionale. Non ce l'hai soltanto tu, già. Lo so, ci avrà qualche mixer della strumentazione. E appunto, questo lo posso aumentare, guarda, adesso mano a mano, hai notato qualcosa? Cambia, sì, cambia il modo di eccare. Poi, guarda, adesso ti mando un po' di modi. Guarda, e non c'è qualcosa. Cambia, sì. Cava. Ma io ce l'ho incorporato nel microfono. Lo so. Questo non è un volume. Guarda un po' questo è un apparato, che fa, e ripete, la parola, completa. Gappa. Permesso! Avanti! Buonasera, ciao Volpe, ciao Gianni, Vela, Antonello, Bombolo. Sogno sempre, buonasera Mario, sono Antonello Centitto. Permesso, avanti eccellenza. Arturo Vittorio Volpe, ben sentito Mario Marcel, Gianni Do Perù, Antonio. Sempre un suo contestoso. Sì, tu. Vagava. grazie che lei ha chiesto. Ciao ragazzi. Che c'è buone assate. E anche rapina, quando vuole si blocco così o c'è qualche rapina in giro. Io sono bloccato questa macchina lì, sono al volo, mi dà il macchina. Non mi bloccando lo stanno, ho visto la... E dove c'è? Dove c'è? Paga. E anche io ci sono scappato il morto, sono buttato di via, poveraccio. Tanto, non esci mi do. È scappato il morto? È un incidente frontale. Già sono qua, eh. Paga. Avanti, bombolino. Sicuramente insomma di altre cose in circolo, la fagna sulle successioni si incidente. E avrà preso il controllo, come è venuto lì infatti avrà preso il controllo. Caramba, e chi lo sa cosa è successo. Avanti Mario. Io non sentito niente, la prima cosa che sento. Cappa, andrà bene. E così purtroppo la Budibudi è una cosa molto pericolosa, perché tutti sono convinti che non c'è nessuno che è poco trafficata. E poi Marco quando te la spicci, puff! Io Mario. L'incidente praticamente sono stato deviato, non l'ho visto, sono passato, siccome è successo appena subito dopo la rotonda, la prima curva che fai, il primo buio per andare verso la coppa, capito? Per andare un po' prima. Ho fatto il giro dalla Sisa, mi hanno deviato, ho fatto il giro da lì, poi sono passato davanti a Mario. A Mario Mao, e ci sono uscito dalla traversa con la coppa, però ce l'ho bloccato anche lì, c'era il carro funebre che se ne stava andando scortato con un vigile urbano, con una moto di vigile urbano. Ho capito, va. Allora è successo presto, perché io ero a casa di Antonello e vedevo la macchina dei vigili urbani tutti vicino al cruccio. Però non avevo capito cosa era successo. Alle 7 successo. E cappagatto, ho capito, perché io ero lì e vedevo la macchina dei vigili urbani. Però non avevo capito cosa era successo. Infatti con Antonella abbiamo detto, boh, guarda la macchina dei vigili urbani, in mezzo all'incrocio, però non si comprende nulla. Perché da casa purtroppo non vedi niente. Non li avete sentiti? Io sono arrivato dopo e quando mi sono affacciato c'erano già. Dite che hanno dovuto tagliare le macchine di Gracisuglia, Gracisuglia di quelle che hanno loro, i vigili del fuoco. E cappagatto, e lì sicuramente chissà cosa è successo lì, perché qualcuno c'è azzardato e non si può girare lì. La coppa e qualcuno ci gira lo stesso, No, Mario, è stata una fatalità, praticamente il tipo anziano ha avuto un infarto, ha perso il controllo e è andato verso un'altra macchina. Lì è transennato, come ha fatto andare? Allora mi ha buttato anche la transenna. No, hai visto, dopo la rotonda c'è quella curva dove c'è la prima villa. È successo lì. Gappa. Allora i vigili erano bloccando per non salire più la macchina. E allora, se c'era il morto in terra? Ah, gappa. E allora ho capito, là. No, io credevo che era successo lì, adesso sentendo a voi, credevo che era successo lì vicino al bivio della Sisa. No, perché lì c'è tanta gente che è incosciente che scende lì, scendendo nella BD. entrare lì alla Suiza. Però c'è un delle gente che ha già dato in gira. E io l'altra volta mi sono trovato uno di frontale, se non avevo il numero più maggio io, così io. A pagare, e beh. Giulia, purtroppo, vabbè, quella lì allora se fa una fatalità, no, cosa ci vuoi fare, purtroppo, le due disgrazie succedono, no, l'importante è che non sia una cosa per incoscienza o perché, capite, che arrivi, ne avevo dovuti, camminano i comandanti, un bel di luce, ma vai da minuta, E poi quel pezzo che stai dicendo di te, dalla Sisa, proprio quello svincolo lì della Sisa, dove c'è la Sisa lì, c'è quella strettoia, quella che porta più verso le luci gialle, le macchine scendono, sparate cose, come devi fare quella rientranza, a volte come molti corrono, te li trovi davanti. Già lo so, non lo dire a me che chiedono una volta... Mi è capitato di salire io, però là scendendo, buono, tagliare la strada per entrare alla Sisa. A vero, e poi, ma cosa, ma nulla, bastava entrare nella traversa più su, praticamente dietro casa di Mario c'è la traversina, entri lì, tranquillo e beato, poi scendi alla Sisa. Invece no, ne vale una giusta, parati, e poi ti tagliano la strada per entrare alla Sisa, per carità. Bene, cappa gappa, andare, riprendi il mobolo, che si faccia la macchina, cioè, sono gente che non guarda nulla, proprio imbecille, ma io gli auguro sempre di trovare un camioncino, vorrei che la prossima volta vi pensa di cuore prima di fare così. Sì, ma quello di stasera della macchina è l'ultima cosa, perché l'assicurazione bene o male te la giusta. Brutto è quando ci scappa il morto, che della macchina che su molto non ti ha potuto di nulla. Quello è il brutto, le macchine già si aggiustano, poi ne fanno tutti i giorni, le macchine è l'ultimo problema, è vero, è male quando ci rimette la salute, o addirittura la vita, quello è più brutto. Tu hai ragione, per non farsi male a nessuno, però quando fanno così io gli auguro sempre di trovare un camioncino. Vorrei che si fa male solo lui, di chi ti fa dei torti di me. Vabbè, cosa ci vuoi fare? No, io non auguro mai niente a nessuno, perché anche io sono sulla strada e mai si vuole che qualcuno me ne venga in alto. Già sono sempre in guerra, perché c'è anche il mio capo che mi dice tu quando vivi in presa, lascia ribassare, a tutti i dini si fa la precedenza. E io dico, ma io faccio la precedenza, a quello lo c'è, non venga nessuno e tiro dritto. Da me invece, mi guardo dalle luci, dallo specchietto, vedi che gli dà, vedi tutto veloce. Perché purtroppo... Io è provato, che se ne venne in nato, ma non se ne ha più fermato, magari è un pelle da iosso, se ne avrebbe sparato, poco poco, e che si pure. Papà gatto, facciamo riprendere a volte, che adesso eravamo, io mi sembra che era una... no, forse una decina di giorni che non lo sento, va. Grazie Mario, non c'è problema. A giubbotto il secco, ma avane rugavo, perché mi ha rotta. Niente, è riprendere, sono incidenti di routine purtroppo, parliamo di routine, ma quando succedono queste cose ci vuoi fare? È la vita è piena di sorprese e quindi devi soccombere in base alla natura che ci percorre, tutto qua, niente di particolare, e quindi dobbiamo accettare come siamo. Ok, io faccio riprendere a Falchetto, come pare che è rimasto in parcheggio un po' di tempo. A te Falco. Non c'è. Falco evidentemente si sta bevendo un caffè o chissà che cosa. A te già. Magari un rosso. Molte volte è meglio un rosso che un altro scuro. Lui dice sempre un attimo di bianco, un attimo di bianco per farti il rosso. Oi, oi, oi. Antonio lo sento basso, ma cosa ci avrà di strano? Allora mi piace, non c'è nulla da fare, c'era la testa che dice che stavamo vegliando a Capodanno e a Natale, ciu-ciu. Vedete, se ci fosse stata a Natale ti sarei fatto un quattro risate. E cioè? Ma a Capodanno erano, a Capodanno, siamo messi a cantare a baracchini. Addirittura, no, a Capodanno era in un ambiente completamente diverso da quello che era familiare. Ma noi eravamo in famiglia e a quell'ora ci siamo trovati per farci gli auguri, ma eravamo già tutti belli altizzosi. E abbiamo cambiato la canzone, cioè cominciava uno, poi continuava l'altro, poi l'altro, poi abbiamo fatto il karaoke. Che tipo di brani cantavate? Tutto quello che capitava, musica leggera, tutto, cantautori, insomma un po' di tutto. Antonio era un fuori lavorare. Ah, per Antonio vira. E allora? Antonio era il capo banda. Sabia c'era mano, c'era minore, boh, c'è il microfono girato. Sì, era un fumo quella sera. Quello meno brillo, quello che teneva tutti quanti sulla retta via. Ah, tu eri l'organizzatore praticamente. Magà, ero il presentatore con voi Falchetto. Eravamo brilli dai, al massimo, era un fumo vero, ma è arrivato dopo la mezzanotte, che si sono bucato, ero così, ma ero tutto canto alla grande. Quindi eravate una bella greffa, via. Poi quei pochi che eravamo abbiamo ci siamo divertiti. E mia moglie dice, dai vieni che ci sono gli altri, e un attimino so. Quindi c'era anche Antonio ballottaggio, né? E abbiamo più di uno cominciava la canzone e gli altri continuavano, capito? Facciamo un brano più uno. San Marcando abbiamo cantato, tutte quelle canzoni. E che suonava? Sì, no, già. E qua c'era un buon rosso di orune. Sì, ma che suonava però? No, senza suonare, intonavamo noi. Lo so, ci mancava chi suonava, ma la facevamo noi la musica, non avevamo noi. Ah, voce nuda così. Appagata. Insomma, un po'. Abbiamo cantato Battiato, la voce del padrone, tutto l'album ci abbiamo fatto. E siete fatto un concertino, via? Sì. Bandiera bianca, abbiamo cantato il Battiato, poi avevamo cantato anche. Finalmente, che... E lo cosù che mi viene in brigadiera, che manco tre accusavano. E se ne ha risata quando cantava tu, e mi ha ringhiato. Intonato è Antonio, almeno. Sì, non c'era nessuno intonato, Vittu. Era così per divertirci, dai. Non è che noi siamo allenati con la voce, ma a me piace cantare, però non è che abbia una voce esplicita, ma mi arrangio. Insomma, giù per una gionfa, una gionfa, tanto per stare in compagnia e fare gli auguri, dai. sarebbe anche quello bello, i capolanni molte volte passati in Grecia così da amici che sono divertenti, è probabilmente molto più bello di andare magari in un locale anche a spendere, perché si spende quando si va fuori così, e quindi a mio parere forse molte volte è meglio stare tra in casa, tra amici eccetera. Vero, è vero, è vero. Io mi ricordo che molte volte l'abbiamo organizzata in campagna di un nostro amico. Mettevamo un tarto a testa e c'era un po' di tutto, porcetto, agnello, gamberoni, insomma un po' di tutto, ma non era quello, quello che c'erano. Le donne, un bel di donne, noi i maschi tutti quanti che si conoscevano, che erano molto affiattati, e organizzavamo, quando si ubriacavamo, e da voi finiva sempre il crociero. Sì, il discorso è che quando si va così tra amici eccetera, e poi le donne ci sono sempre perché sono le mogli, le nostre mogli che sono compartecipanti a questo Gris Gang e quindi sono importantissime, è chiaro, però dico io, nelle greffe ci sono anche sempre quelli un po' intrusi, così si dice qualche volta. Sì, è vero, è vero. No, ma io mi trovo bene, diciamo, con tutti, se sono persone affabili, cose così, mi trovo bene. È interessante che siano socievoli, se sono persone simpatiche, mi trovo bene, se mi sono molto socievole come altri, quindi leggo con tutti, però mi trovo meglio naturalmente con amici amici, là, quelli che mi sento ogni giorno, che mi trovo ogni giorno, ecco, lì, ma le fa, ma io ti parlo non quando adesso che siamo sposati, parlo di quando non ero sposato, che facevamo queste feste così, capito, in campagna, ah, c'era da divertirsi, una volta poi eravamo con Tiki Pippa, andiamo a cercare il vino, adesso sbagliamo, prendiamo l'aceto, che stava in questo, beve l'aceto una gatta di luce. Chi su di greba? Ho bevuto l'aceto pronto come era, non si è accorto manco che l'aceto. Aspetta, aspetta, aspetta che lancio a Mario, vai! Miro, senti la registrazione di così Capodanno. Sì, la stavo sentendo. Questo sono io. Io sono di Gesù, già. Ah? Ho registrato Gesù. Oh, mi ha registrato Pierpaolo, il bastardone. Sì, adesso è il bastardone, è uno stesso. A me non lo sentono anche gli altri amici. Cappa, cappa. No, io già l'ho sentito in diretta. È a livello scherzoso che glielo sto dicendo, no, non offensivo naturalmente. Sì, lo so, ah, in diretta, sentite lei, vai. Non sono stato manco lì a chiedere, cioè, gazebi piazzati, diciamo che però come sempre c'è presente gli si sono sapputenti, gli si affarano, gli fasini. Ma noi non era a Capodanno, era Natale, perché a Capodanno, che mi ricordo, era Olbia, ma era la Pausina. Però per dire io. Natale perché era Olbia, a Capodanno, ho fatto Capodanno alla perla. Non vedete la due Maria dell'Eva? Ah no, io non mi sono bagnato, perché poi a Marco gli è venuto sonno e ho lasciato mia moglie con mio cognato, mia cognata e altri amici, perché lì quando vede la così impazzisce, io ho detto dai bambino sei stanco, io papà io c'ho sonno e siamo andati alla macchina. E ci siamo dormiti tutti e due in macchina, tu mi ti aspettiamo, tanto la macchina mia moglie sapeva dove era parcheggiata, ti aspettiamo in macchina, ok, fatto sta che noi ci siamo riparati, loro che ci hanno inviato di barriere da due letti. Ma per favore, voi andate a cucarsi o ancora in radio? Già c'è per Paolo, sta preparando le registrazioni. C'è quella sottospecie di bidocchio già che sta mettendo la portante, forse non ti sente, già mi ha detto se ti stavano a coricare o se sei coricato o se sei ancora qua. Ha detto Gianni se sei ancora qua o stavi coricato. Canale più su del 5 andiamo al 21 e vediamo. Ah, ma io vorrei ascoltare a Mario e ascoltare a Benno, non mi dà problemi, però se volete andare non ci sono problemi lo stesso. Mi stavo dicendo 45, ce l'hai vita? 45 devo cambiare apparato. Perché nel 21 ci segue, sino al 40 ci segue, poi dopo non ce la faccio. E dimmi la frequenza.